Il genio nella bottiglia. Tanto tempo fa, appena fuori da una fitta e grande foresta, viveva un taglialegna con suo figlio. Erano poveri, ma molto felici. La tua zuppa di piselli e il pane sono così buoni, papà, i migliori del mondo. Adesso forza, va a letto. Domani avremo i nostri risultati. Frank crede che sarò io a vincere. Sai, Frank dice che... Vai a dormire ora, Sam. È tardi. Frank era il migliore amico di Sam e si volevano molto bene. Ed oggi Frank era più felice del solito. Ehi, Sam! Dai! Lo zio John sarà così felice di sapere che sei stato il più bravo della classe. Sì, lo so! Papà sarà così felice! Allora, perché stai rallentando? Guarda questa pietra! Non capita tutti i giorni di trovare una pietra così rotonda. Guardala! Il primo che arriva alla capanna vince! Non è giusto! Bene, andiamo, allenatore lento! Zio John, indovina cosa è successo oggi? Cos'è successo, Frank? Siediti e rilassati un momento, va bene? Zio John, oggi sono usciti i risultati e Sam è il primo dell'intera classe. Davvero? Oh, figlio mio, sono così orgoglioso di te. Grazie, papà. Zio, stanno persino pensando di promuovere John in una classe superiore l'anno prossimo. Vedi, zio, Sam diventerà un vero dottore presto. Padre, cosa c'è? Voi due dovete essere molto affamati. Ho conservato del pane per voi. È laggiù, sul tavolo. Zio John, cosa c'è? Diccelo, padre, per favore. Mi dispiace, figliolo, ma non posso più pagare la tua scuola. Papà! Riesco a malapena a risparmiare denaro per cibo e vestiti. Mandarti a scuola è impossibile. Posso chiedere a mio padre, forse? Grazie, Frank. Ma no! Sai cosa? Perché potrei aiutarti a tagliare la legna. Insieme possiamo tagliare più legna. Il che significa che possiamo guadagnare di più e presto avremo abbastanza per farmi tornare a scuola. Taglierai la legna? Perché no? Papà lo fa! Ma... Sto solo cercando di sfruttare al meglio il fatto che sono bravo a imparare velocemente. Proprio come imparo a scuola, imparerò a tagliare la legna e aiuterò mio padre a guadagnare abbastanza per farmi tornare a scuola. No, Frank. Tagliare la legna è difficile. In più, ho solo un'ascia. Abbiamo due asce a casa. Chiederò a mio padre di prestarmene una. Sam, ti dirò tutto quello che faremo a scuola, così, quando tornerai, saprai già tutto. Sì, grazie, Frank. Sei il mio migliore amico. Andrà tutto bene. Ti porterò l'ascia. Il giorno dopo, Sam andò nel bosco con suo padre per tagliare la legna e lavorò duramente fino a mezzogiorno. Cerca sempre quelli già caduti, prima gli alberi morti, figliolo. Per quanto possiamo, dobbiamo cercare di non tagliare gli alberi sani. Sì, padre. A scuola abbiamo imparato che anche gli alberi hanno una vita, quindi non dobbiamo ferirli. Figliolo, dovevi diventare un dottore e ora invece devi lavorare qui. Mi dispiace. Padre, non hai detto che dobbiamo dare il meglio nell'affrontare la nostra vita? Affronteremo questo insieme, padre. E io diventerò un dottore e aiuterò le persone. Quando sarò grande, non dovrai lavorare più. Oh, e se non dovrò lavorare, cosa farò tutto il giorno? Ti voglio bene, figliolo. Adesso andiamo a riposare un po' e pranziamo. Vieni a sederti, pranziamo! Guarda, padre, che bellissimo uccello! Il pranzo! Sam, torna indietro! Non starò via molto, padre! Stai attento, bambini! Sam seguì il bellissimo uccello nel cuore della foresta. Oh, dove sono? Devo essere lontano. È ora di tornare indietro. Mio padre mi starà aspettando. Uff! Aiutami! Aiutami! Dove sei? Qui, vicino al cespuglio. Arrivo! Qui, qui, qui! Sì! Fammi uscire, per favore, fammi uscire, aiutami! Poverino, certo che ti aiuterò! Ah, chi sei? Cosa sei? Sono un genio che è stato rinchiuso nella bottiglia 500 anni fa. Oggi mi hai liberato. Ti meriti una ricompensa. Una ricompensa? Sì, la tua ricompensa. Mi è stato detto di uccidere la prima persona che mi avesse liberato. Perché? È questo il modo di restituire un favore? Bene, se sei saggio e intelligente, salvati da me. Altrimenti preparati a morire. Non sapevo che mi avresti ucciso se ti avessi liberato. Non è giusto. Cattiva fortuna. Come facevo a sapere che c'eri tu in quella bottiglia? Non mi hai appena liberato da lì? Come faccio a sapere se sei tu lo stesso genio o un altro più grande che è venuto qui con tutto quel fumo e ha mangiato il piccolo spirito che era nella bottiglia? Che? Sì, non posso fidarmi di te, magico essere. Allora, cosa vuoi che faccia? Fammi pensare. Torna dentro la bottiglia, così potrò sapere se sei lo stesso genio. Bene, così semplice. Che cosa? No! È ciò che ti meriti per essere stato così cattivo. Non andare, per favore, non andare, fammi uscire. Prometto che non ti farò del male. Come posso crederti? Mi stavo solo esaminando per vedere se sei davvero degno della ricompensa. Se fossi stato davvero cattivo, ti avrei ucciso. Non sarei certo tornato piccolo. Cosa credi? Bene, è vero. Non ti farò del male, fammi uscire. Va bene. Ah, finalmente la libertà. Grazie. Goditi la tua libertà. Aspetta, non vuoi la tua ricompensa? Oh no, grazie. Ti stavo solo mettendo alla prova. Prendi questo, per favore. Prendi questo. Che cos'è? Se strofinerai la parte argentata di questo panno su qualsiasi metallo, diventerà d'argento. E l'altra parte, quella rossa, se la strofinerai su qualsiasi ferita, la guarirà. Prendilo. Usalo saggiamente, amico mio. Dov'è quel ragazzo? Devo andare a cercarlo. Padre, guarda cosa ho ricevuto. Sam! Figlio mio, ero così preoccupato. Le nostre preoccupazioni sono finite. Andiamo a casa e ti racconterò. Casa? Siamo venuti qui per lavorare, figlio. Vai avanti se sei stanco. Padre, non conosco la strada di casa. Vieni con me. Ho così tanto da raccontare a te, Frank. Per favore. Va tutto bene? Solo vieni con me e ti dirò tutto. Ah? Va bene. Piano, Sam. Sto arrivando. Quella sera Sam raccontò tutto a suo padre e a Frank. Lo proviamo? È una perdita di tempo. Prenderò un coltello. Funziona! Funziona! Oh! Ora tutte le nostre preoccupazioni sono finite. Che cos'altro possiamo strofinare? Questo piatto, quella tazza, il bollitore? Quanti soldi pensi che potremo guadagnarci? Andiamo a scoprirlo. I due ragazzi andarono al negozio di gioielli per vendere l'argento. Devo dire che questo è un ottimo argento. Ecco qui. Sì! Entra! La tua cena è pronta! La tua zuppa di piselli preferita, Sam! Padre, non dovremo più mangiare zuppe e pane! Guarda tutte le cose meravigliose che il denaro può comprare! Non sapevo che i soldi potessero comprare cibo così buono! Zio John, La zuppa è davvero buona. Grazie, Frank. Sono preoccupato per Sam. Non preoccuparti, zio. È solo eccitato. Spero che gli passi presto. Ma da quel giorno Sam divenne sempre più maleducato, orgoglioso e presuntuoso. Fammi vedere, cosa posso trasformare in argento oggi? Ehi Sam, ti ho portato i miei libri. Studiamo insieme, dato che tornerai a scuola. Dovresti sapere che cosa abbiamo fatto. Sam, andiamo, visto che tornerai a scuola. Tornare a scuola? Perché? In che senso perché? Volevi diventare un dottore, giusto? Bene, era solo per guadagnare soldi. Ora che ho il mio panno magico, posso avere tutti i soldi che voglio. Perché mai dovrei studiare? E cosa mi dici dell'aiutare le persone? Posso aiutare con i miei soldi e con l'altra parte del panno magico, quella che guarisce. Devo trasformare questo in argento? Sam, vieni, tutti stanno aspettando, giochiamo! No, non voglio giocare. Frank, vuoi aiutarmi a contare le monete? Sarà divertente! Sam, da quando hai preso quel panno, sei cambiato. Da quando ho preso questo panno, sei diventato geloso. Che cosa? Ora vattene, fammi contare in pace. Sei un bravo ragazzo, Frank. Papà, perché insisti ad andare a lavorare? Abbiamo tantissimi soldi ora. E se non vado a lavorare, cosa farò tutto il giorno? Stai con me, mi annoio. Perché? Dove sono tutti i tuoi amici? Non dimenticare, figlio, il lavoro può darti molto. Frank, ehi Frank, guarda cosa ho trovato, vuoi giocare? Tu non vai a scuola, ma io sì! Ora a Sam mancava Frank. Le monete non potevano cacciare via la sua solitudine. Sam non poteva comprare le risate, il divertimento o la gioia. Ciao Frank! Ciao! Ehi Frank, vuoi giocare? Ho dei compiti da fare. Li faremo insieme. Perché? Non hai monete da contare? Sam aveva imparato la lezione, aveva capito che il denaro non era tutto, c'era molto di più nella vita. Figliolo! Padre, ho intenzione di andare di nuovo a scuola. Non preoccuparti, padre, ho preso solo ciò di cui ho bisogno per pagare la scuola. Per favore, tienilo con te, padre, avevi ragione, il lavoro può dare molto, me ne rendo conto ora. Figlio mio, sono fiero di te. Frank! Ehi, Frank! Mi dispiace, Frank. Mi dispiace molto. Ero diventato cattivo e maleducato e inutile. Sì, eri diventato cattivo e maleducato e inutile. Ma è molto più divertente giocare con te, studiare con te, rincorrere gli uccelli e mangiare con mio padre che trasformare le cose in argento e contare le monete. Mi perdonerai? Solo se arrivi a scuola prima di me. Non è giusto! Dai, allenatore lento! E Frank e Sam diventarono di nuovo amici.